coppia. Miti e verità dello sport di Dario Ricci. Sei campione d'Italia, ci credi? Sì, sì, dopo il primo quarto era un po' difficile, ma avevamo già dimostrato di poter recuperare qualche punto anche nelle altre partite e dovevamo arrivare a fargli fare un po' paura alla fine. Allora alla fine, quando siamo arrivati, c'era un po' di titubanza anche da loro e perciò è stato più facile. Sicuramente nell'arco della stagione abbiamo avuto diversi giocatori importanti, ma penso che Shane Laval è il giocatore che ci ha dato qualcosa così. Il momento chiave, aver battuto Milano? Il momento chiave è stata la seconda partita a Trento di playoff. Che campione e che allenatore Meo Sacchetti, sì, perché con la maglia azzurra ha vinto davvero tanto: l'argento olimpico a Mosca nell'80, l'oro europeo a Nantes nell'83 e il bronzo sempre agli europei di due anni dopo. E poi che allenatore, perché è stato anche il tecnico della Sassari scudettata, uno scudetto storico per il nostro basket. Davvero un piacere oggi poter parlare di lui e con lui di come sta costruendo la nuova nazionale. Sì, perché dopo aver firmato l'accordo a inizio d'anno con Cremona, Sacchetti è diventato anche l'erede di Ettore Messina sulla panchina degli azzurri. Beh, Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive presso la Cattolica di Milano e ospite fisso di questa edizione di Olimpia, so che lei, professore, col basket ha avuto parecchio a che fare con Sandro Gamba, che di fatto fu quello che aprì le porte della nazionale proprio a Sacchetti. Sì, ho lavorato con Gamba per alcuni progetti e poi con Milano, con l'Olimpia Milano in varie fasi, dal 90 fino a poco tempo fa. Direi che di Sandro Gamba ricordo tantissimo la sua forte personalità, la sua intelligenza, e proprio per questo piace molto alle persone che gli stanno intorno. Non mi stupisce il fatto che in quella bellissima nazionale di Nantes era una sorta di maestro guida, che veniva seguito proprio per le sue capacità di mantenere in equilibrio, e questa sarà la parola per me importante per questa serata, equilibrio tra forza e capacità di dialogare. E allora andiamo subito a salutarlo, l'ospite di questa sera di Olimpia. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport, a Meo Sacchetti. Buonasera a tutti. Coach Sacchetti, immagino una grande emozione per chi come lei ha costruito la sua carriera con la maglia azzurra, sedere ora proprio su quella panchina. No, beh, sicuramente penso che a tutti gli allenatori allenare la nazionale è una soddisfazione particolare. Per me, che sono stato un giocatore della nazionale, forse trovo dei sentimenti diversi probabilmente da qualche altro allenatore. Però effettivamente è qualcosa di particolare. L'esordio è stato molto emozionante, onestamente. Doppio successo iniziale con alti e bassi, come è normale per una squadra appena nata, no? Beh, sicuramente abbiamo avuto sprazzi buoni in tutte e due le partite. Un finale con la Romania non bello, un inizio con la Croazia non bello. Però l'importante era portare a casa questi punti, perché poi ci serviranno per raggiungere un eventuale ancora giro in giro per la qualificazione. Lei allena anche Cremona. Ecco, vantaggi e svantaggi del part-time? Ma sicuramente è arrivata la nazionale dopo che io avevo firmato questo impegno con Cremona. È logico che porta via praticamente due settimane alla mia società, perché noi gli ultimi impegni ci siamo incontrati il lunedì e ci siamo lasciati il lunedì, però il campionato era fermo ed è successo adesso a novembre, succederà anche a febbraio, e poi dopo l'impegno è solo questo. È logico che non c'è un impegno che collima con la squadra, con le partite, perché sono delle finestre in cui il campionato è fermo. D'altra parte, il doppio ruolo le garantisce anche un punto di osservazione privilegiato sul campionato. Beh, sicuramente la Serie A, un po' perché ci giochi contro, un po' perché la vedi quando prepari anche le partite degli avversari, allora cerchi di guardare qualche partita in più. sicuramente è un occhio sulla Serie A, però molti si conoscono. Adesso stiamo un po' guardando qualche giocatore della Lega 2 per vedere di cercare di fare di vedere se c'è qualche giocatore che possa interessare, se non subito, in futuro, questa nazionale. Nel suo modo di allenare, nel suo gioco, coach, che peso ha avuto l'esperienza vissuta in quella grande nazionale targata Sandro Gamba? Beh, allora, io con Gamba ho un buon rapporto, perché il rapporto che abbiamo fatto con quello che abbiamo raggiunto con la nazionale, e ho anche un buon rapporto per potergli dire queste cose che dico anche adesso. Cioè, il rapporto mio col coach è stato che mi pensavo un giocatore più scarso, poi io sono diventato un giocatore discreto e non mi convocò subito quando arrivò in nazionale, mi convocò solo per le Olimpiadi di Mosca. E allora io gliel'ho detto tante volte, ho detto, vede, coach, mi ha convocato tardi e perciò sono diventato un giocatore tardi, ma però se non mi convocava magari la medaglia d'argento non la vinceva, no? Lo faccio un po' arrabbiare su questo. No, abbiamo un ottimo rapporto con lui. È stato un allenatore che, come diceva lui, molto poco flessibile, che aveva questa durezza, ma era una persona onesta. Io valuto molto le persone al di là del valore della parte tecnica, dell'onestà della persona, perciò è una persona che aveva i suoi principi, il suo modo di vedere. Sicuramente non siamo sullo stesso feeling del modo di giocare alla pallacanestro, perché nella mia carriera ho preso qualcosa da qualcuno, però se devo dire qualcosa in cui mi avvicino un pochettino è il professor Guerrieri, in qualcosa che mi ha fatto vedere la pallacanestro in un'altra maniera. Però ho avuto tanti buoni allenatori, ho cercato di prendere da tutti, però ognuno deve rimanere quello che è. E poi è stato l'allenatore Sacchetti dello storico successo di Sassari nella grande finale contro Reggio Emilia nel 2014-15, con la vittoria poi anche in Coppa e Supercoppa italiana. Bene, la storia del nostro basket è stato sicuramente una grossa risonanza per l'isola. La Sardegna, penso che con questo risultato abbia sicuramente avuto un grosso successo. Mi ricordo che una su due televisioni durante le finali erano accese per guardare, perciò questa cosa qui è stata una cosa importante. Sì, è stata una cosa importante di una squadra che era una buona squadra, che però nessuno pensava onestamente che oltre alla Supercoppa e anche il campionato potesse vincere il campionato, ai playoff che si svolge sulle prima le 5, poi le 7, poi le ultime 7 della finale, se si arriva a giocare alla settima, in cui dicono che poi la squadra più forte sulla carta dovrebbe vincere. Però ogni tanto lo sport è bello, perché sicuramente qualche volta, non sempre, la squadra meno forte riesce a trovare o motivazioni o il periodo giusto di psicofisico di arrivare alla partita, e siamo arrivati. Sicuramente i miei giocatori, quando arrivavano al momento importante delle partite decisive, tipo di dentro o fuori, non avevano paura. Allora, caro professor Tirelli, davvero un piacere oggi parlare di basket e non solo, della costruzione di un gruppo, delle sfide che vanno accettate per mettere alla prova e forgiare un nuovo gruppo di potenziali atleti di vertice. Insomma, parlare di tutti questi temi con Meo Sacchetti. Ora ci prendiamo un attimo di pausa, poi vi aspettiamo ancora qui a Olimpia, la città dello sport. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta Olimpia, miti e verità dello sport. 4 secondi con palla all'Unione Sovietica, Eremin. E finisce in questo momento con la vittoria dell'Italia per 87-85. Soddisfazione enorme, vittoria storica, Gamba che cerca di abbracciare tutti i compagni di squadra, vedete Splendid, vedete Sacchetti, vedete Silvester, Meneghin. Forza po' emozionato e un po' anche, lo confesso e me ne scuso, commosso, ma in 30 anni di telecronache, in 16 campionati europei che ho veduto, mai avevo visto una squadra italiana trionfare come sta facendo la squadra azzurra questa sera. 105-94, Corbalan, 5 secondi, lasciar tirare, segna Corbalan, tanto di cappello a lui, ma la partita è finita, l'Italia ha vinto 105-98 ed è campione d'Europa. L'argento olimpico a Mosca 1980, l'oro europeo a Nantes nel 1983 e ora è alla guida di quella nazionale di cui è stato uno dei protagonisti. Ospite questa sera di Olimpia è Meo Sacchetti, il nuovo commissario tecnico della nazionale di basket. Ben ritrovata Olimpia, la città dello sport, coach. Buonasera a tutti. Beh, coach, in queste due gare d'esordio delle qualificazioni mondiali vinte contro Romania e Croazia ha convocato anche suo figlio Brian, che già aveva allenato a Sassari e che ora sta disputando un ottimo campionato a Brescia. È uno stress, un'emozione in più da gestire? Ma guardi, è successo questo, che quando l'ho convocato mi hanno detto ma sì, convocato Sacchetti, è il figlio, l'ha convocato perché è il figlio. Poi la prima partita l'ho lasciato fuori, non l'ho convocato e perché non ha fatto giocare suo figlio e questo. Perciò voglio dire, sono abituato ormai un po' alle critiche su tutto questo. Mio figlio lo conosco bene, sotto questo l'ho allenato in diverse situazioni, è un giocatore che conosce la pallacanestro e può aiutare sicuramente il gioco di squadra, aiutare i compagni, perché riesce a capire certe situazioni. Sicuramente non fa dell'atletismo la sua forza migliore, però ogni tanto magari in un gruppo serve anche uno che riesca ad essere un po' di collante. Io ero un pochettino questo, quando giocavo ero più votato più che altro alla difesa e un po' al passaggio. Lui ha più tiro di me, però voglio dire, anche se in due ruoli diversi, non dico che siamo simili, ma speriamo che possa anche lui avere la sua storia. Su via, coach, non si butti giù, io ricordo che aveva anche una buona mano, un bel tiro quando giocava. No, bene, io ero un discreto giocatore che onestamente ha giocato con dei campioni e sicuramente ha aiutato i campioni anche a giocare meglio. Però e poi quando c'era il mio spazio qualcosa facevo, ma sicuramente quella nazionale i campioni erano altri, erano Meneghini, l'Alta, Bramonti, però era bello stare con questi e io mi sono ritagliato al mio ruolo di giocatore che collante per questo. Era un piacere, sicuramente i ricordi che ho avuto con quei ragazzi sono cose particolari. Ora sta nascendo un gruppo nuovo, una nuova squadra senza le stelle impegnate in Eurolega ed NBA. Potranno tornare quei giocatori, ad esempio Bellinelli e Datome, in futuro? Allora, io la settimana prima di iniziare ho parlato con i giornalisti e ho detto questa è la prima e l'ultima volta che parlerò degli assenti, perché non voglio più che si entri in questo discorso, non ci sarà questo, non ci sarà quell'altro, niente, non voglio entrare in questo discorso perché io ho una squadra, sto cercando di creare un gruppo e il gruppo è questo, perciò non voglio che ci siano altre recriminazioni, il gruppo è questo, andiamo avanti con questo, ci saranno dei piccoli cambiamenti, ma sicuramente lo zoccolo duro è questo ed è questa la squadra che ci deve portare ai mondiali, perciò è finito questo discorso, non ne voglio più parlare di questi, degli assenti non ne voglio neanche entrare in questo discorso. Momento di passaggio quindi, ma anche l'occasione per alcuni giocatori che stanno emergendo in campionato di guadagnarsi minuti preziosi a livello internazionale, giusto? Questa è una grossa opportunità, l'ho detto, sicuramente sono dei giocatori che hanno avuto magari poco spazio prima e adesso sono stati un po' al margine, adesso hanno la possibilità di stare in campo, di dimostrare a me e di lasciarli di più in campo e di mostrare un po' l'opinione pubblica di essere dei giocatori importanti. Per ora i primi passi sono stati fatti, sono solo due partite, sappiamo benissimo che ce ne serviranno molte altre per arrivare ai mondiali, ci godiamo questo. Pensiamo, speriamo di aver creato un bel gruppo. Vediamo un pochettino con le altre partite che magari saranno ancora più difficili. Però le risposte che hanno dato specialmente a Zagabria per il modo come si era messa la partita all'inizio sono una buona risposta, sicuramente è stata una bella risposta, perché partire fuori casa con l'handicap così, poi recuperare così ha recuperato, vuol dire che i ragazzi erano dentro qualcosa. Ecco, suggerimenti particolari per i nuovi, per gli esordienti? No, suggerimenti, bisogna fare quello che si ha e trasmettere un pochettino ai giocatori che magari sono anche al margine di avere quell'ambizione, quella rabbia di voler far parte di questa squadra. Io vorrei che proprio i giocatori che giocano anche in Lega 2 dicono, però se possiamo arrivarci anche noi, allora si mettano di buzzo buono in un periodo in cui le regole sicuramente non aiutano i giocatori italiani, ma devono tirare fuori qualcosa di più. Sicuramente non è facile, però certe volte nelle difficoltà i giocatori hanno questa rabbia per voler dimostrare anche su qualcosa che non funziona come dovrebbe, ma avere dentro questi stimoli è una cosa importante per un atleta. La voglia di arrivare, avere i sogni e qualcosa è sicuramente una parte importante nel bagaglio di un giocatore. Meo Sacchetti, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Buonasera a tutti, arrivederci. Professor Tirelli, abbiamo sentito Meo Sacchetti che ci ha aperto un po' le porte dello spogliatoio dell'Italia del basket che è in cantiere, in costruzione. Direi alcuni concetti interessanti da sottolineare. Il primo è no alibi. Abbiamo detto gruppo di giocatori nuovo, gioco forza per le nuove finestre di calendario decise dalla FIBA. Bene, quello che per molti sarebbe un problema, per un nuovo CT come Sacchetti diventa un'opportunità. Sì, è proprio il fare di necessità virtù. Parlavo prima di equilibrio e Meo Sacchetti è l'allenatore che riesce a ponderare quelle che sono le necessità e quelle che sono le capacità di analizzare le risorse delle persone. Chi ha un ruolo di leader generalmente deve avere una caratteristica, che è quella di saper leggere dentro le persone, dentro i collaboratori, dentro i propri, in questo caso, atleti, cestisti. E secondo me lui ha questa grossa capacità, in quanto innanzitutto i risultati fino ad oggi gli danno ragione. Questa è la cosa che sappiamo che nello sport fa la differenza e nella vita. E poi un altro aspetto è dato dal fatto che ha sempre manifestato la necessità di costruire il cosiddetto team working. Lui stesso si definisce uomo collante all'interno di uno staff, di un team. E questo pone lui in una sorta di baricentro tra quelle che sono personalità molto egocentriche, egoriferite, e quelle che sono le altre personalità che hanno bisogno di un sostegno, di un aiuto. Eh sì, di fatto è in panchina quello che un po' era anche da giocatore, no? Un uomo squadra capace di fare il lavoro sporco ma anche di segnare spesso dei canestri decisivi con un tiro niente male. Un equilibrio che gli permette anche di convocare il figlio Brian e di saper gestire questo rapporto nel migliore dei modi in funzione delle necessità del gruppo, no, professore? La mente collettiva di solito definisce con pregiudizio delle scelte quando si tratta di un padre che convoca un figlio all'interno di uno stesso team. Questo è successo sempre e sempre succederà, perché fa parte di una nostra attitudine giudicare previamente rispetto a delle valutazioni che poi avranno dei riscontri sul campo. In questo caso però si parla anche di coraggio, perché non tutti hanno la forza per poter convocare il proprio figlio a discapito di malcontenti, latenti o espliciti, che sicuramente si manifesteranno nel momento dell'eventuale difficoltà. Parlo di eventuali perché tutti noi ce ne auguriamo ovviamente che l'Italia vada sempre bene, sempre meglio. Però questo dà proprio l'idea del leader, quello che dicevo prima. Lui è molto forte, ma non è autoritario, anzi lui stesso definiva Gamba proprio troppo autoritario per alcuni metodi. E io credo che sia l'allenatore giusto, anche perché sta dimostrando di poter essere eclettico, duttile, potersi manifestare nella sua forma di leader sia in ambito di club sia in ambito di nazionale. Beh, davvero una previsione, speriamo che si avveri, e sicuramente le premesse ci sono tutte. Allora, professore, intanto un grande in bocca al lupo ancora a Meo Sacchetti per la sua doppia avventura sulla panchina di Cremona e su quella della Nazionale. E professor Tirelli, un grazie per essere stato insieme a noi anche questa sera. Si avvicina Natale, so che si prenderà qualche settimana di pausa, ma poi comunque ancora un po' un pezzetto di cammino con Olimpia c'è da fare prima delle feste. E poi tanto ci ritroviamo anche dopo. Sì, sì, a forza di dare tanta energia, ogni tanto abbiamo bisogno di mettere la spina e di ricaricarci. Per cui a malincuore, ma sicuramente a gennaio ci risentiremo. E un grande in bocca al lupo per tutti. Grazie. E allora, intanto, l'aspetto sempre qui al mio fianco domenica prossima, qui a Olimpia, la città dello sport. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.